siento, si yo hay un tormento, si tiene un ardor, si al fin no es sol, no es sol, no es sol, si gioia, cielo, tormento, o ardor, di dir quel che sento, di dir quel che sento, no es sol. Se gioia, non so, se cielo, non so, se gioia o tormento, un ardore, e quel che sento, se al fin, al fine, non so, non so, al fine, al fine, non so. Al fin, dal sud, dal sud.